Radio 24 Reportage. Milano, 12 dicembre 1969, 40 anni fa. E pomeriggio e migliaia di persone sono stipate in corso Vittorio Emanuele per le compere e gli acquisti di Natale. Camminano veloci con il bavero alzato. Entrano ed escono dai negozi e si sentono così felici, immortali. Ma alle 16.37 un forte boato giunge dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana. Per la prima volta gli italiani scoprono di essere dei bersagli. Sono i giorni dell'innocenza perduta. Lo scoppio a Milano è avvenuto nel pomeriggio nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana. In un primo momento si era pensato alle caldaie dell'edificio, ma le caldaie sono state trovate intatte. Non ci sono dubbi, si tratta di una bomba ad alto potenziale esplosivo. Il 12 dicembre 1969 l'agenzia della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana è gremita per il mercato del venerdì, che richiama gli agricoltori delle province di Milano e di Pavia. La bomba scoppia sotto il tavolo al centro del salone riservato alla clientela, proprio davanti all'emiciclo degli sportelli. Fortunato Zinni era impiegato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana. All'inizio non vidi niente perché il boato tremendo fece saltare tutta la corrente elettrica, saltò il lampadario centrale che scendeva dal lucernario, questo solo per qualche istante. Poi, mentre tentavo di capire se dovevo uscire dalla banca o dirigermi verso il salone, cominciai nella penombra a distinguere persone e cose. La prima cosa che vidi è un cliente che mi si aggrappò ai pantaloni e mi chiese aiuto. Mi inginocchiai accanto a lui e constatai che avevo una gamba troncata di netto. Mi veniva da vomitare, tremavo, piangevo. So solo che questo cliente due mesi dopo tornò in banca con una stampella senza una gamba e mi restituì la mia cinghia. Mi raccontò che, seppure tremante, imbranato e impaurito, avevo cercato con la mia cinghia di fermargli l'emorragia. Anche quando un infermiere mi prese per le spalle e mi rialzò dicendomi, vedendomi tutto insanguinato, la giacca, i pantaloni, mi disse esca fuori e salga su un'ambulanza, io anziché uscire fuori, quasi attratto da una forza misteriosa, mi diressi verso il salone. E quel fotogramma, quello in particolare, non lo dimenticherò mai. Io potrei rimettere al loro posto la sedia miracolosamente intatta vicino al buco dove era la bomba, dove erano i pezzi del bancone, dove erano le cambiale, dove erano le schegge delle cassette metalliche dei cassieri, dove era il cassiere che con la pistola in pugno continuava a dire non toccate niente che devo quadrare, dove erano i colleghi che tentavano di domare qualche principio di incendio e dove era l'altro collega che, prendendo i grandi foglioni degli azzeramenti, erano fogli di carta larghi 1,20 m, cercava pietosamente di coprire i cadaveri. Un'altra bomba viene scoperta nella sede milanese della Banca Commerciale Italiana in Piazza della Scala. È contenuta in una cassetta metallica ma non esplode. A Roma, alle 16.55, un ordigno scoppia nel passaggio sotterraneo della Banca Nazionale del Lavoro, 13 feriti. Alle 17.22 e alle 17.30, sempre a Roma, due bombe vengono collocate davanti all'altare della Patria e all'ingresso del Museo del Risorgimento in Piazza Venezia, 4 feriti. Il paese è attonito. Nessuno crede alle immagini diffuse dalla televisione. E alle 20.30 giunge il messaggio di Mariano Rumora, il Presidente del Consiglio. È lo sdegno della nazione che io sento di esprimere di fronte ad un atto di barbarie criminale ed assurda che non ha precedenti nella storia del nostro paese. Cittadini innocenti ed ignari uccisi e decine di feriti a Milano e a Roma sono un bilancio di vergogna per chi ha tramato vilmente un assassinio che getta nel lutto famiglie e sconvolge la coscienza degli italiani. In quelle ore le indagini si rivolgono verso gli anarchici. Numerosi di loro vengono arrestati. Vi sono Giuseppe Pinelli e Pietro Valpreda. La notte tra il 15 e il 16 dicembre del 69 Pinelli cade da una stanza del quarto piano della Questura di Milano durante un interrogatorio. E anni dopo i giudici di Milano scriveranno che Pinelli perde la vita a causa di un malore attivo. Tra gli anarchici fermati subito dopo la strage alla Banca Nazionale dell'Agricoltura c'è il ballerino anarchico Valpreda. Per anni, fino alla sua morte nel 2001, ha gridato la sua innocenza, che gli sarà riconosciuta soltanto in modo tardivo. E non è che hanno seguito una pista. Loro hanno fatto questa indagine, ci sono durati 2 o 3 giorni. Tutto il resto è stato né più né meno cercare di trovare degli indizi, di trovare prove, no, perché prove non ne hanno mai trovati, eccetera, sulla nostra colpevolezza. Cioè noi eravamo colpevoli a priori, però quello che riguardano le prove sulla strage erano lì anche allora, con la differenza che le hanno messe nel cassetto. Il giudice Gerardo D'Ambrosio di Milano era arrivato ad un centimetro dalla verità, ma la sua indagine viene spostata a Roma. Durante l'indagine che condussi io con Pubblico Ministero e Emilio Alessandrini, scoprimmo proprio questo, che le borse per la strage erano state vendute 2 giorni prima a Padova e contemporaneamente borse marroni e borse nere, c'erano degli elementi ben precisi, perlomeno sulle borse. E questi elementi indicavano che erano state usate borse Mosbach e Gruber, delle borse tedesche di plastica che non avevano scomparte all'interno, una di colore nero che era quella inesplosa alla Banca Commerciale Italiana e di Milano, e l'altra di colore marrone che era esplosa all'Altare della Patria. Poi era stato scoperto anche che i timer erano stati comprati da Freda, i timer sono i temporizzatori per far esplodere dopo un'ora le bombe, erano stati comprati da Franco Freda. Poi scoprimmo infine che il negoziante che aveva venduto le borse si era recato alla polizia di Padova e aveva detto: guardate signori che io ho venduto quella borsa che è stata mostrata in televisione, ed era la borsa inesplosa alla Banca Commerciale Italiana, io ne ho vendute 4 contemporaneamente, una nera e 3 marroni, esattamente 2 giorni prima della strage. Questa notizia non fu comunicata dalla polizia di Padova alla magistratura e non fu comunicata solamente all'ufficio affari riservati, che allora c'era, che era della pubblica sicurezza, e rimase lì, ci arrivammo solamente noi durante la nostra istruttoria e stabilimmo che effettivamente c'erano prove consistenti nei confronti di questo gruppo di Padova. E dopo l'ultima indagine, quella del giudice Guido Salvini, i processi come andarono a finire? 30 giugno 2001, Corte d'Assise di Milano. Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi, Giancarlo Rognoni, fascisti di Ordine Nuovo, condannati all'ergastolo. 12 marzo 2004, la Corte d'Assise di Appello di Milano assolve Delfo Zorzi e Carlo Maria Maggi per insufficienza di prove e Giancarlo Rognoni per non aver commesso il fatto. 3 maggio 2005, il processo si chiude in Cassazione, con la conferma delle assoluzioni degli imputati e l'obbligo da parte dei parenti delle vittime del pagamento delle spese processuali. 40 anni dopo, per la strage di Piazza Fontana nessuna giustizia penale, ma per Fortunato Zinni, impiegato della Banca Nazionale dell'Agricoltura, parte civile ai processi sulla strage, le prove ancora oggi esistono. Pasolini diceva: io so chi sono i colpevoli ma non ho le prove. Io sicuramente non posso definire con nome e cognome i colpevoli, ma io ho visto ed ho le prove che sono stati uccisi 17 persone vittime innocenti con una bomba, che sono stati arrestati immediatamente delle persone indicandole come colpevoli, salvo poi costringere il Parlamento a fare una legge apposita per far uscire dal carcere il principale imputato per decorrenza dei termini della carcerazione preventiva. Posso indicare nome e cognome questa volta di un indiziato anarchico che è entrato in questura con il proprio motorino e ne è uscito cadavere. Posso protestare e indicare con prove che il procuratore della Repubblica di Milano ha chiesto che il processo venisse spostato altrove ed è stato spostato dalla Suprema Corte a Catanzaro a 17 ore di treno dalla residenza dei familiari, con la motivazione che c'erano gruppi eversivi che avrebbero potuto far evadere gli imputati anarchici. Bene, io ho le prove che invece ad evadere sono stati gli imputati neofascisti che sono stati portati a Madrid, in Costa Rica, a Parigi, con l'aiuto dei servizi segreti. Io ho le prove, ci sono due sentenze della Cassazione che assolvono per insufficienza di prove gli imputati e la seconda sentenza dice che la prima è sbagliata perché dovevano condannare Fred e Ventura e non avendoli condannati non possono essere più condannati nella seconda sentenza perché sono stati precedentemente assolti. Io ho le prove e posso provarlo che il 15 dicembre 300.000 milanesi sono andati in piazza e senza un grido, senza uno slogan, senza un cartello hanno dimostrato che la città di Milano, la parte onesta della città di Milano, la parte popolare, ha saputo fermare la strategia della tensione. Tutto questo io dico e ho le prove per dirlo.